Bentornati su Radio Big World, gli irrinunciabili. A questo giro entreremo nel cinema horror. Benvenuti nella mansarda del Dottor Pirates, un luogo dove l'horror è ancora una cosa seria. Per questo motivo parleremo di Quella casa nel bosco, che è un film geniale, lo dico subito, ma può essere veramente amato e capito solo da chi ama l'horror in tutte le sue declinazioni. Mettiamo le cose in chiaro. Per gli altri sarà, se va bene, un piacevole passatempo, o se va male, una serie di scene senza senso, condite da una trama giudicata ridicola. Per essere ancora più chiari, non è esattamente un film horror, è cinema che parla di cinema, è cinema che parla di cinema horror. Confusi? Provo a spiegarmi meglio. Avete presente tutti i cliché del cinema horror? Quando una coppia fa sesso, muore. Un personaggio in una situazione di massima tensione va verso la fonte del presunto pericolo invece di allontanarsi. Giovani ragazzi protagonisti, sempre i soliti, campione sportivo, la bella ragazza, la studiosa, eccetera, tutti massacrati. Ecco, mettiamo che due tizi molto nerd che lavorano nel cinema si siano stancati di queste cose e vogliano reinventare il genere, o distruggerlo, o farne quello che vogliono, come nessuno ha mai osato fare. Direte voi, i soliti proclami. Sì, però loro l'hanno fatto veramente. Quella casa nel bosco è uno smisurato atto di amore verso tutto l'horror e cinema che come obiettivo ha quello di trattare il cinema. Vi è più chiara la faccenda ora? No, eh? Beh, ci credo. Vedete, se dovessi addentrarmi nella trama vi rovinerei lo spettacolo, per cui il mio compito non è facile, vi posso solo stuzzicare. Perché se tra i miei ascoltatori ci dovesse essere un amante dell'horror, e non intendo un amatore, intendo uno che è completamente dentro a cose come il mito di Cthulhu, la casa di Sam Raimi, ci siamo intesi? E via discorrendo, e spero che siate in molti così, non gli posso rovinare questa esperienza se ancora non ha visionato la pellicola, perché il senso di sorpresa sarà genuino e fantastico. Questo film è bello perché è uno di quei rari casi in cui si crea una sorta di complicità tra lo spettatore e il regista, perché si capisce subito che si condivide lo stesso background cinematografico. Per cui voi vedrete tutti i cliché più banali e più ripetuti del cinema horror e li vedrete di fatto distrutti, reinventati, perché sono trattati come delle regole e vedremo cosa c'è dietro a queste regole. Dietro a tutto quello che noi vedremo c'è una grande visione che culminerà in un crescendo inaudito, un festival della mattanza e del sangue, per sfociare nell'ipicità più pura, una vera libidine. Riguardo il film troverete in rete analisi di vario tipo, riflessioni sul perché gli spettatori amano vedere i giovani ragazzi massacrati, riflessioni sulle reali possibilità di scelta che questi personaggi effettivamente hanno, riflessioni sull'industria cinematografica e via dicendo, i contenuti sono parecchi. Sappiate però che non è per tutti, bisogna avere anni e anni di militanza in determinati territori per apprezzarlo. Se siete tra i fortunati, benvenuti nel club, che la mattanza abbia inizio perché il fine è molto nobile. Buona visione.